Spegnerà le stelle, la fine di una notte che resterà con noi, momenti di una volta trovati insieme a lei. Ingoio ancora il suo respiro, come un fiume in piena, inonda il suo cammino, ritorna ancora lei. Bagliori di una stella trascinare me. Poi risplende un'altra volta nel buio ancora la sua luce. Nel vento sentire la sua voce, volare portandomi con sé. Torna ora questa volta, rivedo ancora quella luce, ora è notte, sento la sua voce salire in alto insieme a me.